Europa 24. Vladimir Putin si smarca ai punta d'est. Il presidente russo, durante una visita molto fruttuosa in Cina, è stato premiato con un accordo storico, la firma del contratto per le forniture di gas russo alla Repubblica Popolare Cinese. È un accordo epocale, non solo per il suo valore, 400 miliardi di dollari in 30 anni, ma soprattutto perché, mentre i rapporti con l'Occidente si deteriorano a causa della crisi ucraina, apre a Mosca la via orientale ed emenda il gas della Federazione dalla dipendenza da un grande cliente, che è proprio l'Europa. È un accordo foriero di importanti conseguenze internazionali sul piano politico, i cui effetti si potranno apprezzare negli anni. Nel 2018, infatti, Mosca invierà per un trentennio 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno attraverso il cosiddetto tracciato orientale. Questo naturalmente sarà un tema di cui torneremo a parlare. E ora torniamo completamente in Europa per parlare della drammatica situazione in Serbia, paese colpito dall'inondazione. Bene, la Serbia, in quanto paese candidato all'Unione Europea per fronteggiare i costi di emergenza e ricostruzione dopo le inondazioni, potrà contare sugli aiuti economici del Fondo Europeo di Solidarietà. Il servizio. Oltre 50 i morti, 600 i dispersi e danni per centinaia di milioni di euro. Oggi la Serbia, la Bosnia e la Croazia fanno i conti con le macerie lasciate dalle peggiori inondazioni che i Balcani abbiano affrontato da un secolo a questa parte. Alcuni sono riusciti a rientrare nelle proprie case, ma tanti sono ancora gli sfollati. Johannes Hahn ieri ha affermato che la Serbia, in quanto paese candidato all'Unione Europea, potrà contare sugli aiuti economici del Fondo Europeo di Solidarietà, perché siamo di fronte a un disastro nazionale, ha detto il commissario europeo alle politiche regionali. Nel caso della Croazia, invece, fra le ipotesi di intervento del fondo ci sono anche quelle per disastro regionale o disastro subito come paese vicino, ha spiegato Hahn. Per la Bosnia e Erzegovina, invece, Bruxelles conta di riassegnare fondi della direzione allargamento della Commissione. Gli aiuti dovrebbero arrivare entro l'autunno. Oggi a Belgrado si svolge la conferenza internazionale dei donatori, con la partecipazione di una trentina di paesi di Europa, Stati Uniti e Asia, oltre a delegazioni di Bruxelles, Consiglio d'Europa, BERS, BEI, Banca Mondiale e ONU. Una prima stima parla di 3 miliardi necessari per la ricostruzione nei tre paesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine parliamo della lingua italiana in Europa. È una lingua davvero a rischio nel confronto con inglese, francese e spagnolo? Lo abbiamo chiesto a Marco Benedetti, direttore generale della Direzione Generale Interpretazione della Commissione Europea. Sentiamolo. Ma sinceramente penso che sia un'impressione sbagliata. Certo, bisogna sempre mantenere la guardia alta, come si dice, perché il rischio ci potrebbe essere, ma l'italiano è intanto una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea come le altre 23, e poi posso assicurarle che in tutte le riunioni del Consiglio dei Ministri l'italiano è parlato e c'è facoltà di parlare italiano e di ascoltare l'interpretazione italiana. Ecco, se c'è una cosa che a mio avviso sta accadendo è che gli italiani tendono a lamentarsi appunto di questa tendenza, come dire, a non valorizzare sufficientemente l'italiano, ma sono poi i primi a non farlo, cioè l'investimento sulla lingua italiana. Come viene fatto negli ultimi anni? Guardi, non poteva dirlo meglio, perché è l'impressione che abbiamo anche noi quando purtroppo sentiamo o sappiamo di delegati italiani che vengono nelle riunioni internazionali a Bruxelles o altrove e che si esprimono, anche se avrebbero la facoltà di farlo in italiano, si esprimono in un'altra lingua, con risultati non sempre ottimi o confortanti. E dunque, quando mi chiedono ma che cosa si può fare per salvaguardare l'italiano in Europa, la mia risposta è molto semplice, è sempre quella: parlate italiano, è il modo migliore per salvaguardarlo. Per adesso dunque è tutto per Europa 24, l'appuntamento con l'Europa di Radio 24 è per questa sera, naturalmente tra le 21 e le 22. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.